Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e bentornati a Radio Doc. Questa sera vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulla vita di Benny Hill. Per milioni di fan, Benny Hill rimane l'uomo più divertente del mondo. Non solo un grande comico, ma anche attore e cantante. Nel 1991, dopo oltre 40 anni di attività, Benny Hill vinse il Charlie Chaplin Award. Quel giorno il comico capì di aver coronato il suo sogno di bambino: diventare una star dello spettacolo. Il comico realizzò le proprie ambizioni, ma pagò a caro prezzo la sua celebrità, perché si ritrovò a vivere solo per il lavoro. A Southampton, sulle coste meridionali dell'Inghilterra, il 21 gennaio 1924, nasce Benny Hill. Il suo nome di battesimo è Alfred Hawthorne, ed è il secondo genito di Helen e Alfred Hill. Dopo 6 anni, a lui e al fratello Leonard, di 2 anni più grande, si unisce la piccola Diane. Benny è il preferito della madre, che ha la sua stessa passione per il canto ed è il pilastro della famiglia. La famiglia Hill vive in un ricco quartiere a nord della città. Il padre gestisce un negozio che vende articoli sanitari di vario tipo, compresi i preservativi, che però non vengono ancora chiamati così. Trovandosi vicino al porto di Southampton, il negozio è molto remunerativo. Kenneth Ball, compagno di scuola di Benny Hill. C'era un pub piuttosto frequentato nelle vicinanze, dove era facile trovare delle prostitute per chi le cercava. Il padre di Benny Hill vendeva quelli che allora venivano chiamati prodotti di gomma. Faceva un po' ridere che la sua attività fosse incentrata proprio su quello, ma andava piuttosto bene. Benny ha la comicità nel sangue. Il padre e lo zio facevano i clown al circo. A 11 anni, Benny vince una borsa di studio per una scuola locale. Eccelle nelle materie artistiche, ma non è portato per lo studio. È un tipo solitario e i suoi compagni lo considerano un enigma. Benny viene convinto dalla madre a unirsi a un gruppo musicale. Suona la chitarra e racconta barzellette, dopo averle provate davanti agli amici. Con la sua famiglia va spesso a teatro, dove rimane estasiato dagli spettacoli di rivista e capisce che quello è il mondo a cui vuole appartenere. Dennis Kirkland, produttore e regista. Raccontava che quando era piccolo, il padre lo portava in diversi teatri dove si esibivano le compagnie di rivista. Negli spettacoli c'era un ragazzo paffuto con un buffo cappello. Era circondato da bellissime ragazze e faceva ridere e applaudire il pubblico. Benny si disse: voglio essere quell'uomo. A 17 anni, Benny vende la sua chitarra e lascia Southampton per inseguire il proprio sogno. Va a Londra, non avendo soldi, dorme in un rifugio antiaereo. Il suo primo passo nel mondo dello spettacolo è lavorare a teatro come trovarobe e vice direttore di scena. Benny interrompe la sua giovane carriera nel 42 per arruolarsi nell'esercito, dove guida gli autocarri. Alla fine della guerra ha l'opportunità di tornare sulle scene, trasferendosi alla divisione di intrattenimento delle truppe, dove il suo umorismo sfacciato ha subito successo. Una sera, allo spettacolo, assiste anche il suo colonnello. Richard Stone, agente di Benny Hill. Benny partecipò ad uno spettacolo durante un ricevimento in uniforme. Era il secondo attore e guidava gli autocarri. Lo show si svolgeva all'interno di un piccolo teatro. Lo trovai molto divertente. Gli dissi: noi due non resteremo nell'esercito per sempre. Io diventerò un agente e tu un comico. Quindi non esitare a contattarmi. Quando viene ingaggiato dal colonnello Stone, Alfred Hill diventa Benny Hill, in onore della star americana Jack Benny. Ancora Richard Stone. Lo mandai a un'audizione dove c'era anche Peter Sellers, che rimase piuttosto colpito. Benny vinse l'audizione e diventò la spalla di Reg Varney. Reg Varney, uno dei migliori artisti inglesi di varietà, ha bisogno di una nuova spalla. Reg Varney, attore comico. Dopo la nostra prima esibizione, pensai che fosse bravo, ma non mi resi conto della sua effettiva bravura finché non lavorammo insieme per diverse settimane di seguito. I due collaborano con successo per 3 stagioni, ma Benny desidera essere la star dello spettacolo. Quando finalmente ci riesce, scopre che quello è un ruolo molto difficile. A mano che si sposta al nord, rinomata tomba per i comici del sud, Benny strappa sempre meno risate. Non molla, ma lo scarso successo lo incupisce. e Reg lo aiuta a superare la paura del palcoscenico. Nel nord dell'Inghilterra, Benny va in scena insieme a Reg Varney per l'ultima volta. Ancora Reg Varney. Ero in camerino. Sembrava che andasse tutto bene. Invece, quando ascoltai, sentii che la gente che applaudiva era pochissima. Non avevo mai sentito un applauso così fiacco. Fu una cosa davvero terribile. Quando Benny uscì di scena, era veramente distrutto. Arrivò Chan, il manager, e gli disse: «Il tuo pezzo era pessimo». Allora Benny gli chiese che cosa avrebbe dovuto fare. E Chan gli rispose: «Vattene il prima possibile». Tornò a Southampton, a casa della madre. Passò lì 2 o 3 mesi seduto in giardino. Fu una bella estate e scrisse centinaia di sketch. Poi li portò a Ronnie Wallman alla BBC. Gli disse: «Tenga, signor Wallman, gli dia un'occhiata. Credo che troverà questo materiale interessante. Gliel'assicuro». Wallman lo guardò e gli offrì un lavoro in televisione. Benny ha l'opportunità che cercava. Negli anni 50 la televisione è il nuovo mezzo. Ora può inseguire di nuovo il suo sogno di diventare una celebrità. Nel 54 Benny Hill è il comico più amato del Regno Unito. Ladies and gentlemen, it's time for the Benny Hill Show. Il timido trentenne dall'umorismo spinto è il preferito della nazione. Ancora Richard Stone, agente di Benny Hill. Secondo me la sua non era la classica comicità inglese. Io direi invece che Benny seguiva più la tradizione americana della parodia. Era un comico fuori dal comune per l'epoca, perché non era il solito attore che stava in piedi in mezzo al palco facendo battute. Grazie alla sua attenzione per i particolari, Benny è la nuova star della TV. Ha un modo di usare il nuovo mezzo che fa impazzire il pubblico. Ancora Dennis Kirkland, produttore e regista. Fu un grande innovatore nei primi tempi della televisione. Fu il primo ad interpretare 3 o 4 personaggi nella stessa scena, nel programma Soap Box Jury. Poteva farlo grazie allo split screen, in cui ogni personaggio compare in una parte diversa dello schermo. Alla fine c'erano contemporaneamente 4 Benny Hill. Benny lavora sodo per far sembrare spontaneo il suo umorismo. Con la sua bravura nel creare i personaggi, riesce anche a far ridere il pubblico di se stesso. Benny ha un timbro di voce perfetto e sa usare le parole. Nel 61 questa canzone entra nella top 20. I went to view a lady's house, she handed me the key. She said it's to be let as it stands with all that you can see. I said are you to be let with the house in a very saucy tone. She said I'm not to be let with the house, I'm to be let alone. Con la faccia impertinente e lo sguardo allusivo, è perfetto per la TV. Benny è affiancato da donne affascinanti, come quelle che sognava da ragazzino, ma in amore ha poca fortuna. Durante la prima tournée con Reg Varney, conosce Elizabeth English, un'attrice di teatro. Benny si innamora di una ballerina del suo show, ma una sera le chiede di sposarlo e viene respinto. Louise English, figlia di Elizabeth e amica di Benny Hill. Era piuttosto turbato perché aveva provato a mandare un messaggio a quella donna tramite mia madre, ma senza successo. Così mia madre lo portò fuori a mangiare e a bere qualcosa per tirarlo un po' su. Lui era un ragazzo estremamente dolce e sensibile. Per la gioia dei suoi fan, Benny fa un tour promozionale per il primo dei suoi 6 film, ma in realtà è sempre più felice quando è lontano dalle luci della ribalta. Parla alla perfezione 5 lingue e passa diversi mesi all'estero, girando spesso per i teatri e i circhi, in cerca di nuovo materiale per i suoi spettacoli. Trascorre tutta la vita da solo. La sua unica compagna è la comicità. Grazie alla comicità, Benny diventa ricco, ma non cambia il suo stile di vita. Continua a conservare tutte le cose vecchie che non sono da buttare, dal telefono alle scarpe. generoso con gli amici più bisognosi, è invece rigido con se stesso. Ancora Richard Stone. Non spendeva mai niente. Ed era sempre sospettoso quando c'erano di mezzo i soldi. Mi ricordo quando diventammo clienti di uno dei maggiori studi di contabilità di Londra. Un sabato pomeriggio il direttore generale andò alle corse e Benny si preoccupò moltissimo. Temeva che stesse scommettendo i suoi soldi e che li avrebbe persi tutti. Dave Freeman, compagno di scuola di Benny Hill. Benny aveva un concetto del denaro fermo agli anni 50. Pensava che pagare una sterlina per una scatoletta di salmone fosse esagerato, ma dare 500 sterline a qualcuno che era nei guai andava bene. Benny dava un diverso valore ai soldi in base alle circostanze. Era come se vivesse in un mondo con due valute. Nel 69, Benny firma un contratto con la Thames Television, che gli fa guadagnare più soldi e successo di quanto abbia mai desiderato. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario sulla vita di Benny Hill. Benny Hill si dedicò a tempo pieno al lavoro ed ebbe pochi amici. Nel privato era una persona estremamente sensibile e ossessionata dalla voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo. Nel 1969, Benny firma il contratto con la Thames Television. Ormai è all'apice del successo. Nel 71, Benny incide una canzone su un lattaio, lavoro che ha fatto 30 anni prima. Il pezzo sale in vetta alle classifiche. Benny è un multimilionario. Ogni anno fa 3 o 4 spettacoli che scrive, interpreta e supervisiona scrupolosamente. La sua vita è dedicata alla commedia. Dennis Kirkland, produttore e regista. Stava davanti alla televisione tutto il giorno e quando andava a dormire metteva in funzione il videoregistratore. A una persona normale può sembrare piuttosto strano, ma lui guardava praticamente tutto e ne traeva spunto per le sue sceneggiature. Benny dedica la sua vita allo spettacolo, osservando il mondo e annotando tutto. Le prove e la registrazione dello show agli studi della Thames Television richiedono 3 mesi. Viene tutto curato da Benny, dalle scenografie alle musiche, che vengono scritte nota per nota e poi presentate al direttore musicale. Benny è intimidito dagli estranei e forma una compagnia di attori fidati. Harry McGee, Bob Todd, Jackie Wright e un folto gruppo di ragazze appariscenti. Quando non lavora, Benny vive da solo, in un appartamento in affitto a Queen's Gate, un quartiere esclusivo di Londra. Per 20 anni si rifugia in questo posto, a cui solo pochi privilegiati hanno accesso. Benny Hill non vive come le altre celebrità. Odia le feste e qualsiasi ostentazione di ricchezza. Il suo stile di vita è semplice e austero. L'ossessione di Benny per il lavoro viene superata solamente da quella per il cibo. Benny non riesce a controllare il proprio peso. Smette di fare scorte di cibo, limitandosi allo stretto necessario. Ma la sua linea non migliora. Prova anche con diverse diete, soprattutto nei periodi delle riprese. Ancora Dennis Kirkland. Qualche volta quando giravamo, tenevamo dei ritmi assurdi. Cominciavamo a lavorare la mattina presto e per tutto il giorno lui dava ordini a raffica. Scoprì che prendeva delle pasticche che lo rendevano iperattivo e lunatico. Servivano a far calare l'appetito. Ed effettivamente Benny non pranzava. Praticamente non si fermava mai. Fortunatamente verso sera l'effetto svaniva e lui tornava il nostro Benny. Il sogno di Benny di diventare ricco e famoso si è avverato, ma nonostante i milioni di sterline e di fan, per il mondo Benny rimane un enigma. Nel 1974, in Inghilterra, Benny è all'apice della carriera. Ma prima dei giorni di gloria arrivano quelli di dolore. Nel febbraio del 1976, Benny vede morire la madre, da sempre la sua donna preferita. Il padre è scomparso 4 anni prima. La sorella vive in Australia e il fratello considera Benny un estraneo. A parte un cugino, tutte le persone che lui frequenta appartengono al mondo del lavoro. Invecchiando, Benny si lega sempre più alla sua grande famiglia, alla quale in quegli anni si unisce la figlia sedicenne di Elizabeth English, Louise. Penso che mi volesse bene quanto io ne volevo a lui. Mi proibiva di fumare e se uscivo con un ragazzo pretendeva subito di conoscerlo. Penso che fosse addirittura più protettivo di quanto sarebbe stato mio padre. Alla fine degli anni 70 le ballerine sono sempre meno vestite e l'umorismo è più volgare e meno brillante. Il pubblico comincia a dividersi e Benny subisce le prime critiche. Le nuove generazioni di comici ridicolizzano l'umorismo spinto di Benny, definendolo antiquato. Ma Benny crede ancora di saper far ridere la gente. Benny decide di aggiungere una sfumatura di innocenza ai suoi sketch e introduce i bambini. Non sceglie dei giovani attori, ma i figli e le figlie dei suoi colleghi di lavoro. I figli di Sue Upton sono particolarmente fortunati perché ogni anno lo zio Ben sta con loro una settimana. Benny gioca ad avere la famiglia che avrebbe tanto voluto. Alla fine della vacanza con Sue, Benny prende il treno per Felixstowe, dove lo aspetta un'altra donna che lo ospita per la settimana successiva. Benny va a trovare Phoebe King ogni anno. A causa di una paralisi cerebrale, Phoebe è costretta su una sedia a rotelle, ma i due condividono momenti unici. Solo gli amici più intimi di Benny sanno di Phoebe e di Netta, un'altra amica portatrice di handicap. Benny era l'amico di tutti, ma nessuno lo conosceva a fondo. Alla veneranda età di 55 anni, Benny diventa famoso anche oltreoceano. In America, il suo show diventa presto uno dei più seguiti. Harry McGee, attore comico, amico di Benny Hill. Lo show suscitò un gran clamore, che poi si riversò su Benny. Sembrava strano che il mondo avesse impiegato così tanto tempo ad accorgersi che quella comicità funzionava. Ma Benny capì di avere ottenuto il successo e credo che questo gli diede fiducia in se stesso. Nell'89 il Benny Hill Show viene trasmesso in oltre 140 paesi, facendo divertire più persone di quante ne abbia mai fatte ridere Charlie Chaplin. Il Benny Hill Show è un fenomeno mondiale che porta grandi incassi. I dirigenti della Thames Television, che lavorano con Benny da 20 anni, definiscono il comico un genio della risata. Ma il 1 maggio di quell'anno mandano in onda l'ultima puntata dello show e 3 settimane dopo licenziano Benny. Ancora Dennis Kirkland. Una mattina, verso le 10, andai in ufficio e John mi chiese se poteva scambiare 2 parole con Benny. I due entrarono nella stanza e dopo circa 1 minuto John se ne andò. Quando entrai, vidi Ben seduto in un angolo, pallido in viso. Gli chiesi se fosse tutto a posto e lui mi rispose che John gli aveva appena dato una terribile notizia. Gli domandai quale fosse il problema e lui rispose che i dirigenti non volevano più trasmettere il Benny Hill Show. Era distrutto, come se gli avessero tolto un figlio. Lo show era tutto per lui. Dopo 40 anni di successo, all'improvviso Benny non è più nessuno. Ormai senza lavoro, torna nell'appartamento che ha affittato vicino agli studi di registrazione. Senza spettacoli da scrivere e per i quali mettersi a dieta, Benny comincia a ingrassare e Don Tuffner decide di aiutarlo. Quando andai a trovarlo, era in uno stato pietoso. Lui era un comico di fama mondiale, non potevano trattarlo così, non era giusto. Allora gli dissi che avremmo lavorato per conto nostro. Lo show lo aiutò a riprendersi. Anche se non ci fece incassare molto, per Benny fu importante. Le persone che lavoravano con lui lo consideravano una brava persona a cui era stato fatto un torto e gli rimasero accanto. In pratica lo aiutarono a tornare alla vita. Anche se vengono girati a New York, i nuovi sketch vengono registrati agli studi della Thames, dalla grande famiglia di attori e tecnici di Benny. La serie prevista però non partirà mai. Quando un'altra emittente inglese comincia una trattativa per la nuova serie, Benny ha ormai dei problemi di salute, perché mangia e beve smodatamente da 2 anni. In seguito a un attacco cardiaco, viene ricoverato in ospedale per difficoltà respiratorie. Uscito dall'ospedale, Benny vuole finire le riprese della nuova serie e andare a vedere Louis English in uno spettacolo a West End. Il teatro era pieno e molto caldo. Non era il massimo per Ben, ma lui mi disse: no, no, voglio esserci. Voglio anche che chiami un fotografo che faccia una foto di noi due insieme. Era una cosa che non aveva mai fatto prima. Lo trovai strano. Sembrava che già sapesse. Benny torna nel suo appartamento sul Tamigi. Ma quando non risponde al telefono per 3 giorni di seguito e i vicini sentono il televisore sempre acceso, il suo amico Dennis Kirkland prende una scala ed entra nell'appartamento, che si trova al terzo piano. Arrivai su e lo vidi seduto, con i suoi bellissimi capelli tutti da una parte, così. Il televisore era acceso ed era piuttosto evidente che Benny era morto. Salii sul balcone e lo guardai attraverso la finestra. Aveva un'aria triste e i suoi bellissimi capelli erano tutti spettinati. Il ragazzo dell'appartamento a fianco aprì la sua finestra e mi chiese se volevo un bicchiere di whisky. E io gli dissi di darmi tutta la bottiglia. Poi arrivò la polizia, che entrò dopo aver rotto la porta. Gli agenti mi fecero passare dalla finestra e non potete immaginare che cosa si prova a trovare un cadavere che è lì da un paio di giorni. Non ho potuto toccare niente. Ma ho chiesto alla polizia se potevo pettinare i capelli di Ben. Erano tutti dritti e glieli sistemai. Benny ha 68 anni. Sul tavolo dietro di lui, tra mille carte, c'è un contratto per la nuova serie che aspetta di essere firmato. Benny viene sepolto accanto ai genitori, a Southampton. Muore con la stessa notorietà del suo idolo Charlie Chaplin. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario Benny Hill, vita da comico, andrà in onda su History Channel lunedì 23 febbraio alle 8:45. Radio Doc si chiude qui. Buonanotte.